nuovo in diretta sulle frequenze di Radio Città Fujiko, altri suoni, la puntata dell'imprevedibile martedì 21 novembre, ovviamente 2023, vede diversi ospiti nel Moved Groove e un anticipo per quanto riguarda la presenza in studio, oltre che graditissimo ritorno va da sé, lo troveremo anche nel Moved Groove con una realtà di All Star Game che ci porta ad alta quota, ma avremo in alta quota anche altri suoni di quest'oggi, lo scopriremo tra poco. Intanto do il buongiorno a Paolo Zanardi. Willy. Ma che bellezza, ma come che sei spettacolo. Estivo oggi, sei molto estivo. Io ti vedo un po' più basso oggi, vedi, perché abbiamo una presenza di alta quota e 220 almeno, ma non sono i volt di tensione, sono i centimetri, i famosi 7 piedi e 4, no, questi atleti giganteschi, lunghissimi per meglio dire. Stiamo aspettando Pietro Rossi in diretta, sarà anche in rassegna stampa, avremo Paolo Onofri a breve per alzare la palla 2, ma tu ti starai chiedendo perché hai voluto la mia presenza anche in altri suoni, perché ti presento un atleta musicista nato nel Wisconsin nel 1982 che ho conosciuto qualche anno fa. Lui è un musicista d'avanguardia, di ricerca, un grande talento, un alto talento mi viene da dire, risponde a nome di Dan Kinzelman, è alto 2,06 m, quindi è un 6'8", 6'9", sì, per la sì, misura. E quando l'ho visto vicino a Chris Speed, che sembra Maxi Box, tutti e due saxofonisti, ho visto un bel dislivello, insomma, e la cinturina per il saxofono è particolarmente lunga per lui, allo stesso modo le problematiche con l'asta del saxofono, con l'asta del microfono, scusate, e sarebbe bello averlo anche lui in diretta, in diretta per conoscere le problematiche di statura per le persone particolarmente alte, e perché no anche per il body shaming, no? Noi siamo considerati già. Sai che oggi è una puntata sì, pericolosissima, infatti, perché è un attimo che pesti una... è scivolosa, esatto. Esattamente, un attimo che pesti una ed è scivolosa. Allora iniziamo intanto con la musica, già lo metto come base questo brano che ho selezionato in una formazione quanto mai estesa, dove Dan con un clarinetto basso, perché poi fanno ridere anche gli strumenti al contralto, al clarinetto basso, di solito i bassisti, non so, Jaco Pastorius è 2,02 m e suonava il basso. sì, Chris Speed è alto 1,58, ecco, Maxi Box io lo definisco, e suona il contralto, e vedi anche come ci sia modo. Beh, intanto in musica, allora Dan Kinzelman insieme alla formazione, io l'ho conosciuto insieme alla formazione Hobby Horse. Sai cos'era l'Hobby Horse? È il cavalluccio a dondolo dei poveri, quel cavalluccio con il bastone, le ruotine in fondo, curioso, no? Quando lo troviamo nei fumetti o nei disegni così, e questo giocattolo che io definisco il cavalluccio a dondolo dei poveri. La formazione ai tempi in cui l'ho conosciuto era Hobby Horse, con la stessa formazione lo troveremo a breve con Ponticelli al contrabbasso. Intanto per la Casa della Musica di Roma vi propongo questo brano Light Come, arriva la luce, oggi è una giornata un po' cupa, noi la aspettiamo e intanto ascoltiamo buona musica con le note di Dan Kinzelman. A tra poco. Thank you. curiosità musicale veramente molto profonda, in continuo movimento. La musica di Dan, come ho detto, nasce negli Stati Uniti d'America, nel Wisconsin, nel 1982. La sua ricerca lo porta in Europa, esattamente tra Germania, Svizzera, anche Finlandia, dove troverà uno spazio importante nei jazz club più prestigiosi. La formazione Hobby Horses sarà un motivo ulteriore di ricerca anche nella musica che ha altre note rispetto all'improvvisazione radicale che lui di solito porta. Fra l'altro, per dare un esempio delle sue sonorità, volevo proporvi, intanto che stiamo chiacchierando, la musica di Dan Kinstelman, in questo caso riletta con la formazione di Francesco Ponticelli al contrabbasso. Allora, la prima volta che ho visto Dan, perché noi Giandi, come veniamo definiti in stile body shaming, c'è stato questo gioco: tutti e due ci mettevamo sempre più in alto, più in punta di piedi, Chaplin nel film Il Dittatore. Esatto. Ognuno voleva ma quanto sei alto, Dan? Ah, io 2'6". Io quasi. Ok, e tutti e due. Uno allungava il collo, quell'altro ufficio stampa Eleonora Sole Travagli, 1'42 in mezzo. Ciao ragazzi, come abbiamo una foto dove ovviamente abbiamo Eleonora Sole Travagli che salutiamo in mezzo a noi, e posso assicurare che è una scaletta quanto mai divertente. Sai, comunque, Paolo, la soddisfazione di trovarmi un musicista così di statura, ma in tutti i sensi, grandissima qualità musicale e voglia di ricerca. Ne parleremo magari in maniera sintetica nel prossimo stacco. Finalmente ho potuto chiedere: ma giocavi a basket? È un classico. Un classico delle domande che arrivano alla statura. Ma tu giocavi a basket? No, per me, guarda, ho iniziato subito con la musica ed è stata una passione che mi ha coinvolto, sì, con gli amici, qualche cosa, ma non è certamente la mia passione, non sono particolarmente portato. Quindi vedi, non tutte le persone alte poi hanno la conseguenza dello sport della pallacanestro. Lui ha trovato la sua strada come musicista quanto mai affermato, e soprattutto, come ho detto più volte, in una capacità di alzare l'asticella della ricerca e della curiosità in maniera assolutamente forbita, con queste scale armoniche e disarmoniche in ogni spazio musicale che va a coprire. Un all-around player, in questo caso, della musica, Ma voglio fare una brutta figura in diretta, sì, perché a me piace il jazz, ma non ne so quanto te. Allora, prima mi ricordava un po' Thelonious Monk, adesso mi ricordava, soprattutto al piano, un po' Bill Evans. Dipende dalla realtà musicale. Hai citato i due grandi giganti che hanno costruito il pianismo moderno. Come ti ho detto, oramai, non come ai tempi, la musica, entrando negli spazi accademici e nei conservatori, non c'è più quel recinto che ti definisce in una modalità. C'è una volontà di esplorazione in tutti i campi, però la tua osservazione è quanto mai attinente. Nella narrazione di Kinstelman c'è la tradizione e nello stesso tempo c'è l'innovazione. Innovazione, bravo, non hai fatto una figuraccia, anzi. fraseggio che ha il saxofono, com'è disinvolto e nello stesso tempo accattivante e pur incuriosendo l'ascolto. Vorrei anche approfittarne per salutare Dan Kinstelman, aspettandolo al più presto in una delle rassegne tra Bologna e Ferrara, non solo, so che lui è impegnatissimo. Una delle ultime performance di Dan è stato al Binario 69, altra performance, vista la curiosità e l'intensità di interpretazione, ricordo che il direttore artistico del luogo ha detto: ascolta, siediti un attimo, perché l'ha visto così dai suoi 2,06 metri oscillare dopo un assolo che l'ha visto particolarmente impegnato. Mettiti a sedere, se no chi ti alza più a te se per caso hai uno sbarrione. Sì, perché l'impegno e l'intensità espressiva è assolutamente molto molto profonda. E salutiamo quindi Dan Kinstelman alle 7:58 minuti, qualche nota che ci permette il collegamento alla pubblicità. La rubrica Altri Suoni si occupa di musiche inconsuete, tra il GR di Radio Popolare, l'inizio ufficiale della rubrica, questo per conoscenza anche di Paolo, co-redattore di Radio Città Fugico, nelle novità 2023-2024, è giusto che tu sappia com'è strutturato il Breakfast Club, ok? Ok. Sarà già in collegamento con noi Paolo Onofri, quindi Paolo, quando vuoi mandare la palla 2 odierna, chiaramente sempre molto gradita, anzi indispensabile, per partire a breve con il Moved Groove. Non cambiate frequenza, Radio Città Fugico, i 103.1 per la prima colazione in diretta. A tra poco.